America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Wednesday night and the big story on Action News tonight is the appointment of a special counsel to oversee perhaps the most important political investigation of our time. Sono venuto nella capitale americana per cercare di respirare più da vicino quest'area di scandalo che pervade la Casa Bianca, il Congresso, i media, i politologi, un po' tutti ovviamente vivono in questa atmosfera nuova. Nuova perché? Beh, perché ci sono state delle notizie, lo avete sentito dal newscast che vi ho fatto ascoltare. Il Dipartimento per la Giustizia ha deciso di nominare un procuratore speciale per l'inchiesta sul Russia Gate. È stato scelto l'ex direttore dell'FBI Robert Mueller, un personaggio al di sopra di ogni sospetto, che dovrebbe proseguire in quell'inchiesta che aveva cominciato James Comey all'FBI. Ecco, c'è un punto però. La scelta di Mueller è stata fatta da Rosenstein, Rod Rosenstein, il numero due del Dipartimento per la Giustizia, che è anche colui che ha scritto il memo a Trump che poi ha portato al licenziamento di James Comey. James Comey, ve lo ricordo, direttore dell'FBI che lavorava appunto all'inchiesta sul Russiagate. Ecco, vi dicevo, siamo alla terza notizia negativa e la borsa ne ha risentito parecchio. A questo punto c'è un voto negativo per Trump in arrivo dal mercato, cosa non da poco. Le perdite sono state fino all'1,7% per l'indice Dow Jones, ma prima di parlare di borsa provo a riepilogare. Allora, vi ho già raccontato la storia di James Comey, licenziato dall'FBI perché voleva potenziare le inchieste che stava portando avanti per il Russiagate. Subito dopo c'è stato uno scivolone di Trump, la gaffe, la condivisione di informazioni super classificate con il Cremlino. E dopodiché, avanti ieri, abbiamo avuto l'altra notizia, cioè che Trump aveva cercato di influenzare il lavoro dell'FBI chiedendo proprio a Comey di insabbiare, tra virgolette, le indagini che l'FBI stava portando avanti sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Michael Flynn in quel momento era consigliere per la sicurezza nazionale, era legatissimo ai russi e a un certo punto è stato costretto a dimettersi. Ecco, si impone una domanda di fondo. Ma Trump, come dicono molti, rischia davvero l'impeachment o l'applicazione dell'articolo 25 della Costituzione che prevede un meccanismo per rimuovere un presidente? I was in the Nixon administration, as you know, and I thought that after watching the Clinton impeachment, I thought I'd never see another one. But I think we're in impeachment territory now, really? For the first time. Ecco, avete sentito, questo è David Gergen. David Gergen è uno dei più influenti osservatori politici nella capitale, è stato consigliere di Richard Nixon, di Bill Clinton e di altri presidenti americani, anche di Ronald Reagan. E Gergen dice: sembra che Trump avesse cercato di impedire l'indagine dell'FBI su Flynn. Stava usando il suo potere in tal senso e quando James Comey non si è adeguato, a quel punto lo ha licenziato. Ora siamo in territorio di impeachment. Ecco, fra tutte le gaffe, i problemi che ha avuto Donald Trump in questa settimana, devo dire in questo momento il più grave è proprio quello relativo alle dichiarazioni di Comey, o meglio alla nota, al memo, al verbale che è emerso di Comey, dell'ex capo dell'FBI, in cui riassume un incontro che ha avuto col presidente durante il quale il presidente gli ha chiesto di appunto insabbiare, di smetterla di indagare su Flynn. E questo sarebbe ostruzione della giustizia. Questo è un fatto molto grave e molti credono che su questo potrebbe davvero esserci una procedura di impeachment. Ecco, la domanda di fondo, torno a farla, è questa: ci sarà davvero un impeachment? Bene, secondo me non ci sarà un impeachment. Non siamo ancora arrivati a quel punto, perché il Parlamento è in mano ai repubblicani. I repubblicani dovrebbero votare per una procedura di impeachment. E attenzione, una procedura di impeachment non significa dimissione del presidente, significa semplicemente un'inchiesta per valutare se il presidente ha commesso delle violazioni della legge o meno. E dunque solo dopo questa procedura si arriverà a un voto. Ci fu una procedura di impeachment, per esempio, per Bill Clinton, ma Bill Clinton poi vinse e dunque non si dovette dimettere. L'articolo 25 della Costituzione è più complesso, prevede che i ministri del presidente vadano in Congresso a dire che il presidente è incapacitato, ma non siamo a questo punto. Trump è assolutamente in controllo di se stesso, fa soltanto gli stessi errori, si muove nello stesso modo scomposto in cui si è mosso durante la campagna elettorale E però, what's the news? Beh, the news è che così facendo ha vinto e dunque una buona parte dell'opinione pubblica americana resta dietro di lui. La situazione è però molto complessa perché se ci fosse davvero ostruzione della giustizia e se dovesse partire un'inchiesta su quello, beh, allora le cose per Trump potrebbero complicarsi ed è per questo che i mercati hanno reagito. Sentiamo. Trump turmoil ever hit the markets? It was rough. Trump situation, Francis, sending shivers down Bay and Wall Street. It was the worst day since September for the Dow Jones Industrial Average. Tutti e tre gli indici di borsa ieri sono precipitati in rosso e il termometro di Wall Street parla chiaro perché questa ondata di scandali che vi ho raccontato a questo punto preoccupa. Preoccupa per varie ragioni, perché nel momento in cui c'è instabilità alla Casa Bianca, beh, questo non va bene, ma soprattutto non va bene che ci sia instabilità all'interno dell'amministrazione, che ci siano preoccupazioni di altro genere, che si debbano destinare risorse ed energie ad altro e non a che cosa? Beh, alla riforma del sistema fiscale, che è la cosa più attesa oggi dai mercati. Sembrava fatta, sembrava che la proposta fosse in qualche modo annunciata, che si doveva passare a un compromesso con i democratici. Ecco, tutto ciò adesso torna in alto mare. Il Dow Jones, vi dicevo, ha perso addirittura l'1,76%, siamo a quota 20.611. Il Nasdaq ha ceduto il 2,57%, siamo a quota 6.011. L'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,80%, siamo a quota 2.357 punti. Ecco, questo sell-off è il peggiore dallo scorso settembre e dunque è un'indicazione di quanto grave sia la situazione nella capitale americana. Ecco, l'amministrazione in tutto questo cerca di recuperare fonti alla Casa Bianca, il portavoce Spicer, ma anche altri personaggi influenti. Abbiamo sentito McMaster, il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, hanno detto che la ricostruzione dei fatti, così come l'hanno presentata i media, non corrisponde assolutamente alla verità. Donald Trump non avrebbe cercato di influenzare in alcun modo come, insomma, proprio alla vigilia del debutto internazionale di Donald Trump, questi scandali non aiutano la Casa Bianca, non aiutano, devo dire, anche l'America. Però il processo democratico funziona, quel sistema di equilibri, di checks and balances è molto sano e questo, devo dire, non può che essere rassicurante al di là di come andranno a finire le cose. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la dedichiamo alla Casa Bianca, sconquassata, scombussolata da questi ultimi avvenimenti. E dunque, beh, non poteva essere che il grande Elvis, Elvis Presley, All Shook Up. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.